Bonjour, bidon. Prima puntata. Buongiorno e benvenuti alla primissima puntata di Bonjour Bidon, il programma radiofonico che la redazione di Bidon ha pensato di offrirvi per il Tour de France 2017. Io sono Angelo Trofa e a fianco a me c'è... Cominciamo bene, no? Sì. Direi subito sbagliando i propri nomi, nemmeno quelli dei ciclisti che possono essere proprio il proprio nome. Non so come mi chiamo. Diciamo che siamo molto emozionati perché siamo in diretta e saremo in diretta tutti i giorni alle 11 per seguire assieme il Tour de France. Alle 11 o qualche minuto dopo, oggi già abbiamo cominciato con un ritardo. Io sono Leonardo Piccione, ciao. E io sono, il mio nome corretto è Angelo Trofa. Oh, bene, bene, bene. Noi, come vi diciamo, siamo in diretta e l'innovazione tecnologica che tentiamo per questo luglio 2017 è quello di poter raccontare al nostro modo il Tour de France che sta per iniziare tra qualche ora da Düsseldorf. Come sapete, Bidon ogni anno cerca di inventarsi qualcosa di nuovo e quest'anno lancia il cuore oltre l'ostacolo e si è inventato... non lo recupera più, cioè rimane lì perché... Speriamo di recuperarlo almeno a fine luglio. E questa è la nostra Bonjour Bidon e seguiremo insieme il Tour de France. Ci proveremo al mattino, una mezz'oretta, quello che riusciamo a raccontarvi in questi minuti. Noi siamo in diretta, siamo a Cagliari. Siamo a Cagliari. Oggi è una giornata nuvolosa, quindi se siete a Cagliari anche voi potete verificare che è vero che siamo a Cagliari. Perché siamo a Cagliari, Leonardo? Siamo a Cagliari perché a luglio si sta bene a Cagliari. Sì, no. E diciamo a Cagliari perché Angelo è di vive sì, a Cagliari. Angelo, di Cagliari. Per chi non lo conoscesse, è un attore regista teatrale e con Bidon ha curato l'anno scorso la rubrica notturna del Tour de France, si chiama proprio Notturno, se non sbaglio. È stata molto bella e molto apprezzata anche dai nostri lettori e soprattutto ha scritto 4 brani, se non sbaglio, per il nostro 100 Giro, che è la pubblicazione che abbiamo fatto uscire in contemporanea col 100° Giro d'Italia, e quindi è a tutti gli effetti membro della redazione di Bidon. Sì, un membro. Diciamo che invece a fianco a me c'è Leonardo Piccione, che invece è il cuore. Il cuore della redazione di Bidon. È uno degli animatori principali. Un altro lo stiamo per ascoltare tra qualche istante. Comunque, siamo a Cagliari anche per un altro motivo. In realtà noi abbiamo un sottile obiettivo, ma scaramanticamente non lo diremo, per festeggiare, diciamo, vicino a Cagliari a fine luglio. Già festeggiare siamo a un passo un po' lungo, però dai, siamo nella regione del campione italiano, no? Che è Fabio Aru. Non dobbiamo ricordarlo noi ai nostri ascoltatori, comunque. Vabbè. Siamo in Sardegna, siamo a 2 passi da Villa Cidre. Da Villa Cidre, sì. Comunque, torniamo al Tour de France. Oggi alle 3:15. Sì, 3 qualcosa, più o meno. Comincia il 104° Tour de France. Il 104° Tour de France, non so se tu sai, Angelo, come è iniziato il primo Tour de France, perché la leggenda della creazione del primo Tour de France meriterebbe una divagazione lunga, ma noi la faremo subito molto breve, perché il Tour de France nasce grazie al malore di un cane. Ah, lo sapevi? No, non lo sapevo. No, è perché il Pierre Giffard, giornalista delle Figaro, aveva questo suo cane che all'improvviso non dava più segni di vitalità, era sempre stanco. Il veterinario gli diede il consiglio di farlo correre accanto a un cavallo per farlo riprendere. Però Giffard odiava i cavalli e gli fu suggerito di usare una bicicletta. E quindi Giffard si appassionò così tanto a questo nuovo mezzo di trasporto che era la bicicletta, siamo alla fine dell'Ottocento, fondò un giornale in Francia chiamandolo Le Vélo, quindi un giornale dedicato alla bicicletta. Le Vélo ben presto divenne un giornale famosissimo, e nacque un giornale rivale che invece si chiamava L'Auto, che ovviamente si occupava di automobili, però la sfida era sulle corse ciclistiche. L'Auto a un certo punto nel 1902 superò definitivamente in questa battaglia tra i due giornali Le Vélo, perché inventò il Tour de France. Si fece venire quest'idea Géant Lefèvre, questo famoso giornalista di ciclismo, il mitico Lefèvre, consigliò a Henri de Grange, altrettanto mitico, di organizzare una corsa ciclistica che facesse il Giro della Francia. E quindi il 1903, il 19 gennaio 1903, L'Auto annunciò che sarebbe stato organizzato il Tour de France, la più grande corsa ciclistica del mondo intero. 1903, prima edizione del Tour de France. La più grande corsa ciclistica del Montero, e in realtà gli è riuscita e gli riesce ancora, credo, dopo più di 100 anni, perché oggi quella di quest'anno è la 104esima edizione, ma sono più di 100 anni, mi sa 115. Dal 1903, certo, 114. 114 anni che esiste il Tour de France, ma... Va bene la prima edizione, arriviamo invece a quella che incomincia tra qualche ora. Esatto, facciamo un salto breve. Da Düsseldorf. Ma per parlare dell'edizione, di che cosa dobbiamo aspettarci dell'edizione che tra qualche ora parte dalla Germania, abbiamo al telefono quello che prima abbiamo definito l'altra parte, il cervello di Bidon. Abbiamo con noi Filippo Kautz. Filippo? Buongiorno, buongiorno Bidon. Ciao, ciao Filippo, come stai? Come stai Filippo? Tutto bene, grazie. Purtroppo non sono a Cagliari al mare con voi, per cui questo mi rende un po' meno felice, e anche il fatto che mi abbiate fatto svegliare all'alba per questa cosa. Ma... All'alba, alle 11:15 del mattino? un concetto di alba abbastanza relativo, ma comunque... Sì. Speriamo di averti presto qui... Speriamo di averti presto qui a Cagliari, Filippo. Farò del mio meglio. Va bene, allora dunque, Filippo, tu che sei il cervello di Bidon, che Tour de France ti aspetti? Tu mi fai sempre delle domande difficilissime a sorpresa, oltretutto, nonostante ne concordiamo di diverse. Questo è un tuo classico già da quando abbiamo presentato il 100 Giro in Sardegna, e mi aspetto un tour indefinibile, nel senso che c'è un lotto di favoriti che... forse più ampio del solito, forse no, perché poi il favorito è sempre lo stesso, e c'è un percorso che si presta poco forse a esaltarli questi favoriti, ma si presterà sicuramente a lasciare tante chiavi di lettura aperte. E io invece, come sai Angelo, e se non lo sai lo imparerai presto, sono quasi sempre in disaccordo con Filippo, quindi a me il percorso del Tour piace un sacco, ma ne parleremo dopo del percorso. Fermi tutti, bonjour Bidon, comincia con la polemica, dai! No, avremo tempo per le polemiche. Io semplicemente sono abbastanza ottimista, loro mi conoscono, gli altri ragazzi di Bidon, come quello che crede sempre un po' alle favole, e quindi io credo che questo percorso del Tour, così diverso dagli altri, possa invece regalarci qualche emozione. Poi vi dico perché più avanti. Va bene, sì, torneremo sì. A parlare del percorso tra poco. Io ti dico che sono teso e emozionato per l'inizio del Tour come prima di una puntata di Twin Peaks, della terza stagione, che mi sta prendendo tantissimo. Non so se lo stai guardando. No, non lo sto guardando. Guarda. Adesso potete fucilarmi perché sono tra i pochi in Italia che non vede e non parla di Twin Peaks. Siamo in due, Angelo, siamo già maggioranza. Ah, perfetto, sì. Dunque... Ho visto le prime due serie, non so se vale lo stesso. Vale, però la terza, bisogna guardarla. Ma andiamo avanti. Sì, a proposito di serie, parliamo dei protagonisti della nostra serie, quella che incomincia proprio oggi pomeriggio. Parliamo dei protagonisti. Dunque... Abbiamo deciso di fare una piccola rassegna di quelli che la redazione di Bidon pensa siano i favoriti a conquistare la maglia gialla a Parigi, e li abbiamo organizzati in ordine crescente di possibilità di vittoria, ovvero la redazione ha assegnato a ognuno di loro una percentuale da 1, anzi un numero da 1 a 5, dove 5 è il più papabile. Cominciamo però dai numeri più bassi, ovvero da Luis Menties, o come lo chiami qui tu? Qui ci dobbiamo mettere d'accordo sulla pronuncia, forse Menchis, però Filippo tu come lo pronunci invece? No, io ho provato un po' a studiarla ma non sono riuscito a capire come si dice, una cosa tipo Minches addirittura, vabbè. Però non crederei neanche io a quello che sto dicendo, per cui non è facile, ci vorrà secondo me qualche settimana e soprattutto ci vorrà lui protagonista, cosa forse un po' più improbabile. Sì, noi l'abbiamo messo come quello, il corridore con meno borracce, soltanto due, anche se poi qualche lettore di Bidon nei commenti ci ha scritto che avremmo dovuto aggiungere anche ai favoriti Bookman magari. E Roglic e Talansky, cioè favoriti, una borraccetta, cioè qualche possibilità di fare bene in classifica la diamo anche a Bookman, Talansky e Roglic, ma noi in terza fascia abbiamo messo Menchis con due borracce, Pinot, Maika e Martin con due e mezzo. Due parole velocissime: Pinot ha corso il Giro d'Italia, non crediamo che possa competere per la classifica generale per le prime posizioni, però ci aspettiamo che ci faccia divertire. Maika, bisogna vedere se finalmente proverà a fare classifica al Tour, o se si concentrerà ancora una volta sulla maglia Pois, e non ci dispiacerebbe perché ci ha sempre fatto piacere vederlo con la maglia Pois. E poi Daniel Martin, che ha dichiarato proprio negli scorsi giorni che è nella condizione migliore della sua carriera. Vediamo cosa può significare, magari anche qualche bella azione da parte sua. Quindi questi sono nella terza fascia, io direi di andare, di salire un po' con saliamo i favoriti. Tra, alla seconda fascia, dove ci sono quelli che hanno voti un po' più alti. Partiamo da Simon Yates. Filippo, Yates è il giovane in questa fascia, perché poi gli altri due sono i grandi vecchi del ciclismo spagnolo, sono Contador e Valverde. Come li vediamo questi tre? Beh, Yates in questa fascia è sicuramente forse un po' l'intruso, è quello che sta al confine con la fascia sotto, come poteva essere Binot, quello che stava al confine superiore nella fascia precedente. E gli altri tre, insomma, poi uno ne parlate poi dopo un po' meglio. E Valverde Contador sembra di parlare del Tour del 2007 praticamente. È vero, è vero. Sono sempre lì, la differenza è che Contador, invecchiando, si è scoperto un corridore coraggioso e spettacolare, e sono sicuro che non vincerà il Tour, probabilmente non arriverà neanche nei primi 5, ma proverà a fare qualcosa di divertente, forse, se non cade, speriamo che non cada. Ma speriamo, sì. E Valverde è probabilmente al momento massimo della sua carriera, come condizione, come forza mentale e fisica, ha avuto una stagione impressionante, come scriveva qualcuno nei commenti a queste valutazioni che abbiamo fatto, una vittoria assolutamente improbabile di Valverde sarebbe la vittoria alla vecchia scuola di un ciclismo che forse ci siamo dimenticati, di gente che corre tutto l'anno, che è protagonista alle classiche, alle corse a tappe, e quindi insomma è un nome che stuzzica quello di Valverde tra questi quattro. Senti, ma tu te lo vedi Nairo Quintana che a un certo punto soffre la stanchezza del giro e diventa gregario di Valverde per la classifica generale? C'è anche questa ipotesi. Qualcuno, anzi, prima del giro ha ipotizzato che la strategia della Movistar fosse proprio questa, cioè nascondere la carta Valverde e in realtà puntare su di lui per la classifica generale al Tour. Non mi vedo Nairo Quintana fare il gregario in generale di chi che sia. Ok. Ha senso, ha senso. E poi in questa seconda fascia noi abbiamo Fabio Aru, ovviamente tre borracce e mezzo anche per lui, ma di Aru parleremo un pochino meglio più avanti. Arriviamo invece tra quelli che più verosimilmente possono vincere questa Grand Boucle, ovvero Bardet, Quintana, Port e Froome. E Froome. Froome, chiaramente il favorito numero uno, perché ha vinto gli ultimi due Tour de France, ne ha vinti già tre, e quest'anno, abbiamo già detto in varie salse, non è sembrato, almeno nella prima parte della stagione, il miglior Froome di sempre, non ha ancora vinto, al Delfinato ha sofferto un po', al Giro del Delfinato ha sofferto un po', però conosciamo Froome, conosciamo la sua capacità di preparare il Tour e di adattarsi ai percorsi e agli avversari. Quindi l'anno scorso l'abbiamo visto protagonista in modi inaspettati, l'abbiamo visto protagonista in discesa e in una tappa con il vento contrario insieme a Sagan, chissà quest'anno cosa ha in mente. Vediamo perché qualcuno l'ha visto questo inverno durante la fase di preparazione alle Canarie un po' distratto dal suo bambino che ha compiuto un anno, e forse dicono quest'anno Froome si è dedicato all'attività di padre, magari ha trascurato qualche dettaglio. Conoscendolo in qualche modo dubito, quindi d'ufficio 5 borracce. Oh, non è detto che la qualità di padre sia qualcosa che migliori un ciclista. E tu poi l'esperienza potresti raccontarlo. Non sono un ciclista. Però non sei ciclista, sei padre ma non ciclista. E poi abbiamo... Mi chiedo se Froome quando fa il padre guarda i valori della potenza di suo figlio costantemente o lo guarda in faccia, perché sarebbe interessante vedere come è strutturata la sua attività di padre, se tipo la sua attività di ciclista. No, dalle foto che pubblica sembra che ci metta un po' più di cuore. Sì, a buon gusto, su Instagram fa delle bellissime fotografie. Sono molto belle. E poi abbiamo Richie Porte, giusto mezza borraccia in meno di Froome, perché ha fatto una stagione veramente, un inizio di stagione 2017 veramente incredibile. Già l'anno scorso al Tour in salita sembrava il più forte, e l'occasione della vita, è l'ora o mai più per Porte. Quintana e Bardet. Allora, Quintana ha fatto il giro, l'abbiamo detto, però l'abbiamo visto al giro quasi non trattenersi, ma avere una gamba chiaramente non ottimale, perché stava cercando di affinare la preparazione in vista del Tour, quindi ce lo aspettiamo al massimo della condizione in questo Tour. Bisogna vedere anche psicologicamente quanto peserà l'aver fallito il primo obiettivo, grande obiettivo della stagione. E poi Bardet, la grande speranza dei francesi, è anche un po' nostra, perché ci siamo innamorati di questo corridore per come corre e per quello che fa quando non corre. È un ragazzo che pensa, che legge, che ha un'idea di ciclismo che a noi di Bidon e in generale credo possa solo piacere. Sì, questi sono i pretendenti. Filippo, cosa ne pensi? Rapidamente. C'è da tifare Bardet con ogni spilla di sudore che abbiamo, perché tra questi quattro è l'unico che ha la capacità di osare ed ha un pizzico di coraggio. Gli altri tre sono a garanzia di una corsa abbastanza narcotica come è stata lo scorso anno, e penso che sia quello che vogliono gli altri tre, perché proveranno solo a punzecchiarsi nei finali. Port credo che farà l'ombra di Froome, sperando che Froome abbia un momento no. Secondo me Port spera che Froome abbia un momento no subito a inizio corsa. E io sono l'unico nella nostra redazione che vede Port addirittura come favorito di questo. Sì, è vero, sei l'unico che ha dato più chance a Port. Mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che vinca Bardet o che vinca qualcuno delle fasce precedenti. Con tutto l'affetto per il buon Richie Port, che è anche un personaggio abbastanza simpatico, ma sarebbe, insomma, un'ipoteca su un Tour de France che rischierebbe di farci isolare molto spesso. È simpatico e ha dimostrato proprio al Giro del Delfinato di non essere più l'ombra di Froome, perché se le sono date di santa ragione, lui e Froome, non sembra che i rapporti tra di loro siano più idilliaci come lo erano qualche mese fa, quindi speriamo che se le diano anche fra qualche giorno. Sì, in maniera abbastanza cinica, speriamo che litighino. Sì, proprio ce lo auguriamo. Come disse Gianni Mura l'anno scorso quando lo andammo a intervistare prima del Tour de France, lui disse: mi auguro che Nibali e Aru si prendano a colpi di pompa l'uno con l'altro. Perché... o di borracce, perché no? O di borracce, magari il metodo Degenkolb dello spruzzo potrebbe, esatto, diventare una strategia del ciclismo moderno. Ma va bene, questi sono i protagonisti, dove si scontreranno? Vediamo al volo un po' il percorso di questo 104esimo. Non lo vediamo tutto, abbiamo scelto quattro tappe molto rapidamente, cominciamo dalla quinta tappa, Filippo, il primo arrivo in salita, uno dei pochi arrivi in salita di questo tour. Uno dei pochi, la famosa plancia delle belle figlie. Mi piace un sacco la traduzione. Sarebbe figlie, ma sarebbe ragazze, credo. Sì, il mio francese sì. Non mi inganna, il mio francese dovete tutto apprezzare al Giro d'Italia. E io, per toccarla piano, come si diceva in televisione negli anni 90, credo che questa sia la tappa dove si deciderà il Tour de France 2017. Ah, proprio diretto. Nel senso che, vabbè, tappe di montagna in generale a questo tour quasi non ce ne sono. Questa è una tappa che è un arrivo che ormai conosciamo abbastanza bene, perché è la terza volta che vediamo negli ultimi anni. È abbastanza scenografico, è una tappa molto corta perché sono solo 160 km. Nei primi 155 non succederà assolutamente nulla, potete mettere la sveglia in base alla cronotabella quando mancheranno 5-8 km all'arrivo. E lì però vedremo uno sfoggio di potenza, perché è una salita da potenza pura, e penso che, insomma, non dico che lì si deciderà il Tour de France, l'ho detto, per cui non è vero che non lo dico, ma si deciderà lì se sarà un Tour de France che penderà dalla parte di Froome e soprattutto Port. È una salita perfetta per Richie Port, io mi aspetto l'australiano in maglia gialla. Addirittura, però, per quanto questa tappa richiami un po' i tour del passato, in realtà gli organizzatori e i disegnatori del tour di quest'anno hanno pensato a qualcosa di totalmente diverso, perché quella tappa è un po' un'anomalia, sia per l'arrivo in salita, sia per il fatto che prima non succede nulla. Molte tappe invece del tour di quest'anno hanno salite all'inizio, sono brevi, l'hai detto anche tu, anche quella della planche del Belfi è breve, e rispecchiano un po' quello che sono i percorsi che negli ultimi grandi giri, il Giro d'Italia e la Vuelta in particolare, hanno creato spettacolo. Quindi gli organizzatori del tour si augurano che con queste tappe brevi e con le salite già all'inizio possano ottenere un po' di spettacolo in più. L'esempio, la tappa proprio esemplare di questo loro disegno, almeno teorico, perché poi ovviamente non sappiamo se questa idea sarà realizzata. Almeno teorico, perché c'è una frase che dobbiamo dire, perché la corsa la fanno i corridori. No, noi cercheremo di non utilizzare le frasi fatte del ciclismo in questa trasmissione, però qualche volta ci tre o quattro vanno inanellate. Vanno messe una dopo l'altra. Assolutamente. No, e poi questa è la frase fatta più vera che esista nel mondo del ciclismo, per cui per cui va ricordata siccome a ogni tappa di questo Tour de France, nel bene e nel male. Certo. No, io apro una parentesi perché dico che su Twitter c'è questa cosa bellissima di Daniel Friby, credo, di Cycling Podcast, che ha creato l'hashtag Tour is the Tour Police. Cioè c'è la polizia che arresta virtualmente chiunque ripeta a corridori e giornalisti la frase il tour è il tour. Perché si tende sempre in questi giorni a giustificare qualsiasi cosa dicendo il tour è il tour. E quindi noi siamo d'accordo con questa crociata contro le frasi fatte del ciclismo. Ma torniamo a quel tour che torniamo è il tour. Che è il tour, e la corsa la fanno i corridori e la faranno durante la nona tappa, che è la tappa da Nantua a Chambéry. Angelo, ci sono 7 Gran Premi della montagna e il primo è davvero dopo 11 km, ce ne sono 3 hors categorie, e 2 di questi, il Col de la Biche e il Mont du Chat, sono salite durissime, hanno pendenze medie superiori al 9%, che per il tour sono pendenze anche abbastanza anomale, sono due delle salite con le pendenze più dure della storia del tour addirittura. Molti credono che questa tappa possa essere quella più spettacolare, d'altra parte quando uno dichiara subito qua succederà qualcosa, può succedere che invece non succeda nulla. C'è l'arrivo in discesa dopo il Mont du Chat, è ovvio che abbiamo tante aspettative per il disegno, per la stranezza di questa tappa, 7 Gran Premi della montagna, 3 hors categorie, vedremo che succederà. E facciamo un salto in avanti, andiamo sui Pirenei adesso, la 13ª tappa, credo, Filippo, perché questo tour passa un po' in rassegna tutte le catene montuose della Francia, dai monti del Giura, della Nona, passiamo ai Pirenei. Passiamo ai Pirenei, alla Saint-Girons-Foix. Io qua sono stato, ho fatto una grigliata qualche anno fa, ci tengo a ricordarlo, è una tappa di una lunghezza imbarazzante perché sono solo 101 km, c'è gente che si è rivoltata contro questa tappa, soprattutto perché è piazzata il 14 di luglio, è il 14 di luglio, che storicamente insomma è un giorno che sappiamo che valore ha per il Tour de France e per i corridori francesi in particolare, ma non solo. E io credo che la definizione di questa tappa ce la diano le quote di partenza e di arrivo. Si parte a 415 metri sul livello del mare e si arriva a 389 metri sul livello del mare. Per cui più che una tappa di montagna credo si possa definire una scampagnata turistica ideale proprio per le grigliate del 14 luglio e delle feste. Però in mezzo c'è qualche salita, mi sembra, eh? In mezzo ci sono il Col de la Trappe e il Col d'Agne e soprattutto il Mur de Peguer, che è una salita molto bella perché ha questa prima parte da rapportone, una parte dove se la corsa la facessero i corridori, o meglio, se la facessero, è una corsa dove si potrebbe già vedere, una salita dove si potrebbe già vedere qualcosa di interessante sin dall'inizio. Questo finale con queste rampe invece durissime, forse il finale è la parte più dura dell'intero Tour de France, mi viene da pensare come percentuali, ma non lo so perché non sono andato a controllare. E poi questo lungo falso piano in discesa che porta fino al traguardo, è una di quelle tappe dove secondo me, tra virgolette, ci si divertirà, nel senso che sicuramente non sarà una tappa all'insegna dell'attendismo, ha questa lunghezza che secondo me se facciamo in tempo andare a Düsseldorf oggi possiamo iscriverci anche noi al tour e ce la possiamo fare. Addirittura. Io non sono d'accordo, ovviamente. È una tappa in cui si vedrà sicuramente tanto movimento, penso che i distacchi alla fine di questa tappa saranno nell'ordine dei pochi secondi. Io, tra gli uomini di classifica, mentre i velocisti qui rischiano di andare fuori tempo male. Fermi tutti perché di nuovo è il momento della polemica. Io non sono d'accordo, però poi lo spiegherò nei prossimi giorni perché stiamo andando lunghissimi. Vado subito alla tappa numero 18, Brianson-Isoar, non potevamo non metterla, l'Isoar, una delle montagne storiche del Tour. È raro che si arrivi in cima a questi passi di montagna, perché appunto, come dice la parola, sono passi, ci si passa, non ci si arriva. Infatti i puristi della geografia del tour non sono contentissimi dell'arrivo sull'Isoar, ma noi che amiamo le montagne, amiamo i paesaggi alpini, siamo contentissimi e speriamo ovviamente che sulla salita dura dell'Isoar possa succedere, possa decidersi il tour, perché poi mancano due tappe alla fine del tour dall'Isoar. L'ultima decisiva potrebbe essere la cronometro di Marsiglia. Appunto, magari qualche parola in più sulla ultima cronometro, Filippo. A Marsiglia, secondo te succederà qualcosa? Sicuramente, secondo me, per me è la tappa più bella quella di Marsiglia, perché è molto corta anche quella, purtroppo, anche in questo caso Prudhomme e compagnia hanno avuto un po' il braccino corto nel disegnarla, però ha un bel disegno perché c'è tanta pianura, c'è una salita in mezzo, tram, a spezzare le gambe come se niente fosse, dei paesaggi che vabbè non sto a spiegarveli, e soprattutto la partenza e l'arrivo allo stadio Velodrome. Al Velodrome, bellissimo. che credo che insomma già solo quello varrà lo spettacolo della tappa, e penso che peserà tanto in classifica quell'ultima cronometro, forse non sarà decisiva ma avrà il suo peso. Allora, noi adesso mettiamo un attimo in pausa Filippo, cioè sì, è con noi ma ci ricolleghiamo con lui più tardi, perché ci tocca parlare un po' dell'enfant della patrie dove siamo adesso, che è Fabio Aru. Ho letto già qualche commento sotto la diretta, oggi non risponderemo a molti commenti perché il tempo è quello che è, però leggo quello di Luca Carta che dice: ma si può dire forza Aru? Si può dire. E noi lo possiamo talmente tanto dire, anche per la paura del linciaggio, visto che usciti di qua c'è comunque la Sardegna, almeno esatto, per noi. Esatto, mi cacciano subito di qua. Se sì, te che c'è evidentemente un accento non sardo. Quindi, per, diciamo, amore del luogo che ci ospita, abbiamo pensato addirittura a una rubrica specifica sui luoghi e i costumi, ma soprattutto sulla lingua sarda e il nostro ciclista sardo. Quindi parte adesso il Sardo in Sardo. Già dall'inizio, Aru Depri Bogai Azza. Azza sarebbe il filo della lama, il filo di una lama molto affilata. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve esprimere tutta la sua protervia, tutto il suo coraggio, tutta la sua voglia di fare e tutta la sua barra e valentia. Depri Bogai Azza. Dunque, la voce... Io capito pochissimo, aiutami. Ti aiuto io. Barra e ballintia. Sì, ti spiego io. La voce che avete appena sentito è la voce di Elio Turno Artemalle, che ci ha offerto questa piccola pillola di sardo, ovvero una espressione de peri bogai sarza, ovvero deve mostrare il coltello. È diciamo più un auspicio, un nostro incoraggiamento all'enfant del pays, come diceva il nostro Leonardo, ovvero incomincia oggi il suo Tour de France, che è un Tour de France di riscatto. Per questo certo. Elio ha citato altri due concetti, la barra, ecco, che è un'espressione sarda che possiamo tradurre al volo come l'orgoglio, okay, e la valentia, cioè il valore. In realtà la valentia è una cosa estremamente complessa, però per il poco tempo che abbiamo a disposizione diciamo che è il valore, l'orgoglio, un misto di coraggio, energia e anche sbruffonaggine. Perché il Tour de France è un tour di riscatto, quello di Aru. Certo, noi non sappiamo ancora se Fabio Aru mostrerà il coltello, certo sappiamo che mostrerà una bellissima maglia di campione d'Italia. Assolutamente. È stata mostrata qualche giorno fa durante la presentazione delle squadre, è davvero molto bella, la Astana ci ha convinti finalmente dopo quella di Nibali che un po' ci aveva lasciati non del tutto soddisfatti. Ci sono state alcune polemiche su Twitter, abbiamo letto, perché qualcuno dice: ma perché la maglia di campione nazionale non ha mai le bande verticali ma ce l'ha sempre orizzontali? Di questo però parleremo nei prossimi giorni. Non rispondiamo adesso, no, lasciamo il dubbio come nelle migliori serie TV. Cioè, come quelle che ti piacciono. Come quelle che piacciono. Comunque, torniamo ad Aru, io sono dato una piccola perplessità e su questo coinvolgerei anche Filippo se vuole. Il ruolo di Fuglsang, il suo compagno di squadra, non si è capito se sono entrambi capitani oppure no, se Fuglsang è una figura di supporto oppure lo deciderà la strada. Anche questa è un'altra frase bella fatta. Non lo so, perché credo che Fuglsang sia assolutamente capitano anche lui della Astana. Ha preparato il tour molto bene Fuglsang quest'anno, poi è un corridore che così misteriosi ce n'è pochi, però se l'è preparato da lontano e non penso che abbia una mancanza di fiducia. Certo, questa resurrezione di Aru nelle ultime settimane che ha scombinato un po' le carte, perché nessuno se l'aspettava, qualcuno non si ricordava neanche più l'esistenza di Fabio Aru e di colpo è tornato a galla, e questo dovranno essere bravi in Astana a riuscire a mantenerli in pace tra loro. Io penso che Fuglsang verrà incoraggiato a correre da capitano a lungo, perché Aru come risorto potrebbe anche io non so se Aru avrà il coltello, ma Filippo ce l'ha già prontissimo. Diciamo che Filippo si permette certe affermazioni perché è a Milano. Comunque no. Va bene. No, forza Aru, diciamolo, sì, perché certo che, perché poi ci piace, a me personalmente piace molto come corridore, mi piace il suo essere così istintivo, a volte sbaglia anche i tempi, però lo fa sempre con grande cuore, con grande spirito, quindi dai, speriamo che faccia bene. Vabbè, lo scopriremo lo solo speriamo, vivendo. Lo dico anch'io a Milano e non voglio risultare quello che che si fa forte del suo essere sul continente, assolutamente. Forza Aru, come forza tanti altri, perché speriamo che se ne diano davvero quest'anno. Speriamo. Va bene, adesso passiamo proprio ad analizzare la tappa di oggi, quella che parte tra circa 4 ore. Perché tra 4 ore comincia il tour, comincia con un cronometro, e noi abbiamo chiesto al nostro amico Pietro Pisaneschi, che è un giornalista vero, a differenza nostra, è toscano, lui è il telecronista delle partite del Pistoia Basket di Serie A, quindi ne sa di pallacanestro, ne sa anche di ciclismo, e ogni giorno, in un minuto o poco più, ci presenterà brevemente la tappa che sta per cominciare. Quindi diamo la parola a Pietro con la tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della prima tappa di questo Tour de France 2017, la 104esima edizione della Grand Boucle, una prima tappa che si svolge interamente all'interno del circuito cittadino di Düsseldorf, 14 km senza alcuna difficoltà né dal punto di vista altimetrico né tantomeno dal punto di vista planimetrico. La Germania dunque, la Germania che torna a vestirsi di giallo e ad ospitare una tappa del Tour dopo gli anni di diffidenza nei confronti della principale corsa ciclistica annuale funestata durante gli anni 2000 dagli scandali, soprattutto relativi al doping. Ma la terra teutonica non poteva restare tanto tempo senza riabbracciare una corsa come il Tour de France, anche perché la bicicletta è molto legata alla Germania, non solo perché a Düsseldorf, sede della prima tappa, sono presenti oltre 300 km di piste ciclabili, ma proprio perché in Germania nel 1817, ovvero esattamente 200 anni fa, avvenne la prima prova su strada di un prototipo a due ruote realizzato da Karl Drais, il cui nome può essere tradotto in italiano come macchina per correre, e che formalmente era la bis, se non anche la tris nonna dell'attuale bicicletta. 14 km al cronometro, dicevamo, che regaleranno la prima già maglia gialla di questo Tour de France. Il favorito d'obbligo deve essere per forza considerato Tony Martin della Katiuscia, non solo perché corre in casa, anche se è bene ricordare il brocardo latino Nemo Profeta in patria, ma proprio perché nelle corse contro il tempo Dar Panzerwagen risulta essere il favorito principale. Potrebbe insidiare la prima maglia gialla di Tony Martin il corridore della Lotto Enel Jumbo, ovvero Primo Roglic. Attenzione anche alle distanze che dopo i 14 km all'interno del circuito cittadino di Düsseldorf potrebbero avere fra di loro i vari uomini di classifica, e dunque da tenere sotto controllo Chris Froome, Richie Porte, sicuramente due specialisti delle corse contro il tempo, Quintana, Aru, che invece vanno un pochino più piano a cronometro, ma anche Valverde, Contador e soprattutto Bardet. Ricordiamo la prima tappa, cronometro individuale all'interno del circuito cittadino di Düsseldorf, 14 km, si assegna la prima maglia gialla di questo tour. L'appuntamento con la presentazione della tappa è a domani. Un saluto da Pietro Pisaneschi, un invito a seguire il post tappa su Bidon e a cliccare sulla mia pagina personale, la doppia P, au revoir. Ringraziamo Pietro per il suo resoconto sulla prima tappa. Tra l'altro poi ho una perplessità. Oggi è una tappa di 14 km, una cronometro. Perché un tempo queste tappe si chiamavano cronoprologo e invece oggi è tappa? Cioè, in base a cosa? Lo scelgono un po' così, a caso? Ma stai facendo a me questa domanda? Non lo so, la faccio a chi sa rispondere. Io non lo so. È la lunghezza. Ecco, la lunghezza dovrebbe essere non il discorso. Non può essere definito prologo se è più lungo di... 10 km? Mi sembra 12. 12 addirittura? Comunque... Vabbè. Comunque, ce lo dirà qualcuno, ce lo dirà qualcuno. Ma c'è un'effettiva differenza tra un cronoprologo e una tappa? Cioè, o il nome? La lunghezza. In questo caso questa crono è lunga 14 km, per cui non può essere definita cronoprologo, no? Poi chiaramente è un cronoprologo. L'esercizio stesso, si va in bicicletta e come si dice con le crono, si parte a forte, si parte a putta, si prosegue più forte e si finisce alla morte. Così sono le cronometro, come bene. Per stare sulle frasi fatte che tanto ci piacciono. Ci fanno impazzire. Io voglio tornare un attimo su Pietro, ringraziarlo per la sua vitalità e per il suo accento toscano che funziona sempre. Noi abbiamo fatto un casting alla ricerca di toscani da inserire in trasmissione, perché per adesso abbiamo il mio quasi sardo, il pugliese di Leonardo, il milanese di Filippo e il toscano di Pietro. Cerchiamo altri accenti d'Italia. No, poi nei prossimi giorni avremo altri ospiti, cercheremo di variare il più possibile anche le nostre rubriche e vi coinvolgeremo di più voi che ci state ascoltando e seguendo sui social. E torniamo sulla tappa di oggi. Io sono d'accordo con Pietro su Martin super favorito, Roglic in seconda battuta, secondo me mi piace molto il corridore della Lotto, spero faccia bene anche classifica generale. Aggiungo Sagan, così, perché tanto nelle tappe del Tour, tranne 4 o 5, Sagan come favorito ci sta sempre bene. Non abbiamo parlato di lui per nulla oggi, ne parleremo nei prossimi giorni. La cosa maggiore che differenzia il Tour dal Giro negli ultimi anni è che il Tour ha Sagan, e almeno questo è garanzia di spettacolo. Filippo, tu per oggi pomeriggio, la prima maglia gialla? Ah, e poi l'altra cosa è che il Tour è il Tour. Certo, soprattutto il Tour è il Tour. La prima maglia gialla io voglio sperare, perché ho controllato un attimo ed è dal 1992 che il vincitore dell'ultima tappa del Giro non vince la prima tappa del Tour. Allora si chiamava Miguel Indurain, io oggi dico Jos Van Emden e mi piacerebbe molto che fosse lui a Jos Van Emden il crono, e secondo me qualche possibilità ce l'ha. L'altro nome che segno proprio con un circoletto rosso è Stefan Kung, che penso che sarà bellissimo nome Kung. Di alto livello. Da segnalare, a parte che il primo che parte è il corridore più giovane del Tour, e Richesberg parte alle 15.15, non so assolutamente nulla di Richesberg, se qualcuno ha qualcosa ce lo faccia sapere, ma ci informeremo, andremo almeno a vedere anche le emozioni del corridore più giovane che parte per primo nella corsa. A che ora parte Aru? A che ora parte Aru, Filippo? Parte alle, adesso anche tu sei arrivato con una domanda sorpresa, devo scorrere. Tu sei lì. 18.27. 18.27. Un minuto dopo Menges e due minuti prima di Contador. Da segnalare che come sempre in queste crono e in un posto come Düsseldorf, che diciamo è noto per due cose, una il Klim Klang Studio e i Kraftwerk, e l'altra un meteo ballerino, a segnalare che c'è chi ha provato a sfidare possibili cambiamenti del vento e del clima e mettersi in orari diversi. Vero, il più celebre di tutti è la Falmaica, che partirà alle 16.09, per cui più di due ore prima dei grandi favoriti. E ancora prima di lui, se non ho letto male l'elenco, ci sarà Buchmann, il giovane. Alle 15.47 il miglior giovane del Delfinato, la maglia bianca del Giro del Delfinato, e papabili per la top 10 o per la maglia bianca di questo Tour. Vabbè, vediamo chi di loro vincerà, chi di noi indovinerà il pronostico, avrà in omaggio del pane Carasau se verrà a ritirarlo. Visto che siamo in Sardegna, ricordiamolo a ogni piè sospinto. Ma prima di salutarci e dare noi salutiamo, salutiamo Filippo. Sì. E gli diamo appuntamento a domani. Filippo, tu hai detto 50 nomi, quindi forse potresti anche vincere il pane Carasau, ma devi venire a prendertelo di persona. Verrei, perché volevo dire una frase che ho nel cuore, che è la Sardegna è la Sardegna. Grazie Filippo. Effettivamente mi affaccio, c'è abbastanza Sardegna che è Sardegna. Grazie Filippo, a domani. Ma ora buona noi a tutti. Grazie. Noi prima di concludere abbiamo una grande novità, una grande esclusiva di Bonjour Bidon. Assolutamente, un momento forse più bello e più aulico di questa noi trasmissione. I pochi fondi che avevamo a disposizione per questo programma li abbiamo investiti tutti in questa rubrica. Abbiamo mandato una nostra inviata al seguito del Tour, oggi è in Germania, a Düsseldorf. Sì. Parliamo di Fiammetta Ruyu. Ecco, l'hai selezionata tu, credo. Sì, l'ho selezionata. È molto brava, ha una vena molto interessante, molto aulica. È esattamente quello che fa per noi, è in linea con tutti gli interventi di Bidon. Che è tipo perfetto. Di racconti ci farà, che storie ci racconterà? Guarda, invito tutti quanti a preparare la pelle d'oca, perché tra poco, anzi, stiamo per ascoltare i suoi resoconti ocra. Come? Resoconti ocra. I resoconti ocra Fiammetta Ruyu. Già la musica Questa è bella. Storia inizia dove la terra incontra il cielo ed il cielo si tinge dei colori del fiume. Il fiume che all'orizzonte sembra il cielo e il cielo che sembra terra. Ma la terra non è cielo, no. È ancora terra e forse fiume. No, non ho capito, scusa. Il fiume, nodoso e attonito, che Franza negli occhi attonito. Una mattina di giugno, quando stufo della sua futilità, della sua vita così futile, decide di aprire un chiosco di salsicce sulla riva destra del Reno. Siamo a Düsseldorf. Ma le sue non sono comuni salsicce. No. Sono fatte di fagiolini, cannellini e latte di soia. Sono i primi würstel vegani di Düsseldorf. Ma purtroppo gli uomini di questa terra, che è ancora terra e non è il cielo, questi uomini che vagano nell'ovvietà sono ancora legati al vecchio ordine del mondo. I würstel vegani fanno schifo. Si sente zufolare così di bocca in bocca. Franz fallisce, chiude, divorzia e comincia a perdere i capelli. Pure. Adesso nei suoi occhi c'è un mucchio di salsicce di tofu abbandonate accanto a un parcheggio per biciclette. C'è il ciclismo. Nell'orizzonte grigio un airone vola basso, attonito. Sì. Va bene. Angelo, ma... No, è brava, deve farsi ancora un pochino le ossa. Ma scusami, ma l'airone attonito a Düsseldorf, io non... Beh, l'airone del fiume. Sì, ma se non le sai certe cose, non dirle. Senti, ma noi davvero abbiamo investito in questo progetto della nostra inviata. Vabbè, adesso tu non andare troppo a specificare questa non è cosa. Che... Torniamo a noi, torniamo al tour. Allora... grazie Fiammetta, insomma, fino a un certo punto. Vabbè, sono storie comunque interessanti, anche questo Franz. I resoconti ocra, Franz sì. le salsicce di tutti. Sì, vabbè, dai, i resoconti ocra sono esattamente quello che piace alla gente. Che ci serviva, che sì, piace, va bene. Ma torniamo a noi, torniamo al tour, anzi, vi lasciamo al tour. Noi per oggi, dopo ben 40 minuti di diretta... Terminiamo qui, vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni, noi saremo sempre alle 11, sempre su Facebook, vi ricordo che questa... Super giù, alle 11, vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, potete trovarle presenti sempre sulla nostra pagina Bidon in Facebook. E vi ricordo che anche su Spreaker e su iTunes, quando la caricheremo, vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, sarà e stata e saranno imperfette e imprecise e totalmente... Assolutamente. Improvvisate. E vi invitiamo, siccome siamo in diretta, diamo un valore aggiunto alla nostra presenza contemporanea, alla vostra presenza, quindi se ne avrete voglia in futuro commentate, fateci sapere cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, commentate anche in diretta, noi cercheremo di integrare il più possibile tutti i suggerimenti, le vostre osservazioni. Cos'altro dire se non vive il tour, ci siamo preparati una fine bella, di quelle fine che fanno appassionare. È troppo banale prepararsi la fine appassionante. Va bene, ma dobbiamo prepararcela, perché i giornalisti veri fanno così. Domani però, troveremo però la fine. Abbiamo Dino Zandegu, che come al solito è presente anche quest'anno con noi, e vi lasciamo alla sua sigla conclusiva e noi ci vediamo domani. Vive il tour. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è, c'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis-Jean Bobin.